9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 6 ottobre 2009 da Oscar Giannino. Il punto di cui ci occuperemo oggi nella nostra trasmissione è molto delicato, ha a che vedere con la giustizia ed ha a che vedere non però con l'interpretazione della vicenda che trovate oggi su tutti i quotidiani, ma con una riflessione più di fondo. La faremo insieme a Luciano Violante e vi leggo una frase solo introduttiva del suo libro di cui parleremo oggi, che si chiama Magistrati. La crescita del potere dei giudici ci costringe a ripensare ai caratteri del principio democratico e la carenza di etica pubblica può essere compensata da un surplus di regole giuridiche. Quali sono i limiti, se ve ne sono, della legittimazione del politico attraverso il voto dei cittadini? Ecco, il punto è questo, interrogarsi sui rapporti tra politica e magistratura. Luciano Violante in questo libro Magistrati stupisce molti di coloro che sono abituati a considerarlo una colonna del pangiuridicismo. Tentiamo oggi di andare ad alcuni dei punti di fondo di questo che è un copione diventato obbligato della cosiddetta Seconda Repubblica e che però sta in una linea evolutiva che viene da lontano, che viene dalla Costituzione, che viene poi dalla scoperta di ciò che in Costituzione rimaneva inattuato, che viene da una evoluzione del ruolo della magistratura nel nostro ordinamento, da un impossessamento, chiamiamolo così, di funzioni sempre più autonome e indipendenti sul serio, fino al punto tale da costituire un ordinamento giudiziario che non ha veramente paragoni nel mondo occidentale, essendo totalmente autocentrato nelle funzioni di decisione, di avanzamento delle carriere e soprattutto di attribuzione degli uffici apicali, avendo realizzato quindi una forma di autogoverno pressoché totale e avendo iniziato a interpretare nei decenni un ruolo di sempre maggior, non di applicazione della legge, ma poi di interpretazione della legge e dopo l'interpretazione della legge di realizzazione di ciò che nella legge non c'è ancora. Ecco, su tutti questi temi ne parliamo oggi prendendo spunto da un libro che è appena uscito, 2 giorni fa, è editore Einaudi, il titolo del libro è Magistrati e l'autore è Luciano Violante. Buongiorno, buongiorno. Violante non ha bisogno che io lo presenti, comunque è professore ordinario di diritto e procedura penale, è stato a lungo magistrato, è stato a lungo parlamentare nella parabola che a sinistra va dal PCI attraverso le diverse sigle fino ai DS, è stato presidente della Camera dei Deputati dal 96 al 2001 e in questo libro io mi limito, prima di presentare gli altri ospiti e iniziare proprio da Violante, io mi limito a leggerne un paio di frasi per darvi l'idea dello spirito che lo informa. Io davvero raccomando a tutti di leggerlo perché a me personalmente sembra, lo so che molti dei nostri ascoltatori diranno Giannino è impazzito, che Violante con questo libro tenti una riflessione equilibrata per tentare di identificare un punto di cristallizzazione di rapporti tra politica e magistratura che altrimenti con questo scontro permanente travolgono la possibilità stessa di una vita ordinata nelle istituzioni della Repubblica. E allora io vi leggo solo questa frase. Eravamo partiti presentando il libro, ricordate, con due interrogativi: se la carenza di etica pubblica può essere compensata da un surplus di regole giuridiche e quali sono i limiti, se non ne sono, della delegittimazione del politico attraverso il voto dei cittadini. Ecco, Violante prosegue poi nelle righe successive dicendo: a questi interrogativi il mondo politico risponde oggi in due modi estremi e contrapposti. Una componente del centrodestra accusa la magistratura di intrusione faziosa nelle vicende politiche e tenta conseguentemente di ridurne la credibilità e l'operatività. Una componente del centrosinistra, all'opposto, considera la magistratura e il suo giudizio addirittura come fonte primaria della legittimazione della politica. In mezzo c'è una variegata maggioranza numerica che però non ha il coraggio di aprirsi a un programma riformatore che affronti i problemi politici e costituzionali posti dall'attuale statuto materiale della magistratura, senza pregiudicare la necessaria indipendenza. Ecco, quindi è a questo mondo intermedio che rifiuta questo linguaggio di scontro contrapposto che fin dall'inizio il libro si rivolge. Ecco, ne parleremo oltre che con Violante, con Oreste Dominioni, che è il presidente dell'Unione delle Camere Penali, che in questi giorni è al congresso a Torino. Buongiorno presidente. Buongiorno. E poi con Giorgio Spanger, che è docente di procedura penale, anche è stato membro per anni del CSM dal 2002 al 2007. Buongiorno professor Spanger. Buongiorno. Ecco Violante, in questo appellarsi a una posizione, diciamo, di media ragionevolezza, chiamiamola così, lei alla fine del volume, dopo aver ripercorso storicamente l'evoluzione dei rapporti tra politica e magistratura, Se posso dire, però, mi sembra più un ottimismo della ragione che davvero la possibilità di credere che questo si possa fare allo stato attuale della polemica, o no? Ma certamente ci vuole molto ottimismo per uscire dalla situazione nella quale ci troviamo, però io credo che bisogna, procedendo in questo modo, si va ad una delegittimazione reciproca e continuativa che nuoce complessivamente ai valori della Repubblica. Quindi io credo che bisogna alle persone che vogliono davvero modificare lo stato delle cose, avere un sistema giudiziario corretto sia nella versione di potere che ha la magistratura che nella versione di servizio che deve avere la magistratura, sono entrambi aspetti che vanno corretti, credo che bisogna impegnarsi in questa direzione, come io cerco di dire in questo piccolo libro, anche con riferimento ai comportamenti, non è solo tanto un problema di legge, è un problema proprio di comportamenti, di etica, sia nella etica pubblica sia nel mondo giudiziario che nel mondo politico. Non è un appello come moralistico, e se non ci sono delle regole di etica pubblica, le leggi valgono poco. Senta, io le chiedo ancora una riflessione su alcuni punti che mi hanno colpito. Li scelgo a caso, per esempio. Ce n'è uno in cui dice: nei regimi democratici il giudice, a differenza del politico e del pubblico funzionario, non risponde delle proprie decisioni. Questo lo rende immune dalle preoccupazioni che gravano sui funzionari pubblici e sui responsabili politici, naturalmente. Però questo significa anche che poi, prosegue più avanti, il riconoscimento di un diritto da parte del giudice prescinde dalla concreta disponibilità di risorse finanziarie e umane che ne assicurino il godimento. Ecco, nel descrivere questa somma di cose, alla fine lei arriva a una conclusione, a delle osservazioni che più avanti portano a questo passaggio. Questo magistrato diventa così sempre più un attore politico, perché il complessivo funzionamento del sistema e la debolezza della politica lo sospingono verso quella spiaggia. Di questo mutamento, però, molta parte della magistratura coglie l'aspetto del privilegio, ignora quello della crescente responsabilità. Ecco, come si può responsabilizzare con un appello a ragionevolezza un potere, io dico sempre ordine come in Costituzione, però diciamo potere che è totalmente autonomo? Innanzitutto io credo che il punto mio di partenza è che bisogna cambiare la struttura del Consiglio Superiore della Magistratura, cioè andare al vertice. Quel vertice, così come non funziona come organo di governo, con tutto il rispetto che si deve naturalmente a chi ne fa parte e a chi ne ha fatto parte, perché non funziona? Perché oggi come oggi il governo della magistratura è affidato al meccanismo delle correnti dell'associazione dei magistrati, al meccanismo delle appartenenze politiche della parte eletta dal Parlamento, perché sono 2/3 dei componenti del Consiglio sono eletti dai magistrati e 1/3 è eletto dal Parlamento in seduta comune. E questo tipo di meccanismo praticamente non fa fare una riflessione autocritica sulla magistratura stessa. E allora io credo, la mia opinione, credo che i nostri professori Dominioni e Spanger forse conoscono questa mia opinione, per la quale mi sto insistendo da un po' di tempo, è che bisogna scomporre il Consiglio Superiore in 3 parti, una parte eletta dai magistrati, una parte eletta dai parlamentari, dal Parlamento, e una parte designata dal Capo dello Stato tra categorie particolarmente qualificate. Bisogna spaccare il meccanismo dell'appartenenza di corrente, delle protezioni politiche, e invece andare ad un soggetto che abbia un margine di terzietà maggiore e quindi possa avviare quel tipo di processo di cui le parlava. La ringrazio innanzitutto per la cura con la quale ha letto questo libro. No, l'ho letto. Beh, i libri se ne parlo, io li leggo sul serio. Sì, cioè, lo so, vedi una persona seria, lo so, ma non tutti lo fanno. Questo, d'accordo. Senta, Dominioni, vediamo un secondo. Dice Violante, partiamo dall'apice, cioè dall'organo che in realtà appunto è assolutamente, intangibilmente direi, titolare delle funzioni più delicate e importanti dell'autogoverno della magistratura. Se invece partissimo da come funziona il processo e da come funzionano le carriere, vecchio punctum dolens della riforma tentata tante volte ma mai seriamente attuato dalla politica, di come funzionano le cose in Italia, distinguendo e separando le carriere tra pubblico ministero e giudice, lei che dice, partirebbe dal CSM, meglio di così piuttosto che nulla o meglio? No, io ritengo che i due problemi siano strettamente collegati, la separazione delle carriere e la riforma del CSM. Violante usa sapientemente un eufemismo quando dice che il CSM non funziona. Il CSM funziona moltissimo, ma funziona molto male. Agisce da organo di autogoverno anziché configurarsi come un organo che è esterno alla magistratura e la governa in modo autonomo dai poteri politici. E invece qui c'è un autogoverno che si fa quella che ormai è diventata una corporazione, o è diventata, continuata ad essere sempre più una corporazione, composta fra l'altro terribilmente da due ordini di magistrati che esercitano funzioni assolutamente incompatibili fra di loro, la funzione d'accusa e la funzione della decisione. È facile immaginare che quando queste due funzioni così incompatibili sono esercitate all'interno di una medesima corporazione, c'è lo svilimento di entrambe, o meglio di quella più sensibile, più delicata, che è quella della decisione, che quindi finisce per essere subalterna all'accusa. Questa è quindi l'altra ragione, la ragione per la quale la separazione delle carriere è collegata a questa questione del Consiglio Superiore, strettamente connessa al fine di produrre un determinato risultato. Che Luciano Violante non conviene su questa necessità di riforma della separazione delle carriere, e lo ribadisce in questo splendido libro. A mio giudizio, peraltro non tenendo conto di qual è... Violante su questo usa un'espressione un po' recisa, perché dice: l'avvocatura ambisce a una totale parificazione al PM, però insomma è impossibile, dice, perché il PM è un organo pubblico, la sua retribuzione non dipende dal mercato, quindi levatevelo dalla testa, ecco, in sintesi. No, ma questo direi che può essere anche comprensibile. Un grande giurista diceva che la parità fra le parti non può essere intesa come uguaglianza simmetrica, bensì come reciprocità. Se un soggetto, se una parte ha un potere, l'altra parte deve avere un contropotere per dialetticizzare il potere dell'altra parte. Quindi la questione secondo me non è questa. Il problema, Violante teme che separando i pubblici ministeri dai giudici e costituendosi questi in un autonomo ordine diventino troppo forti. Però questo è il timore attuale, mi sembra un altro quello prevalente, però, a dire la verità. Spanger dice all'inizio del libro Violante, c'è una bellissima frase che ricorda Francis Bacon, dice: i giudici devono essere leoni, ma leoni sotto il trono. E torna esattamente su questa stessa frase alla fine del volume, quando dice: beh, insomma, tentiamo di disciplinare questa cosa dei leoni e dei troni, il trono stia saldamente fissato al suolo, così non ha la tentazione di occupare terreni che non gli competono, quindi la politica tende a eccedere, e i leoni, cioè i giudici, si muovono liberamente nella propria area, ma siano tenuti dalle solide catene della giurisdizione, della competenza e della responsabilità, che, vedendo alcune di sentenze come quelle di cui sentiamo nei giornali radio anche oggi, non lo so se le solide catene della giurisdizione siano proprio così solide. Lei che ne pensa? Non era forse anche un pochino più utile tenere alte le barriere quando nel passaggio da un giudice che diventa sempre più interprete della legge, poi incalza la politica sulla costruzione da attuare, eccetera eccetera, è diventata una specie di forza promotrice e attuatrice della storia hegelianamente? Forse all'epoca bisogna tenere un po' gli occhi più aperti, o mi sbaglio? Lei che dice, professor Spanger? Sì, io credo che sia vero ciò che lei dice. Io vorrei sottolineare questo profilo. La magistratura punta ad avere un ruolo di indipendenza, ma dimentica spesso che alla parola indipendenza va abbinata un'altra, che è la parola responsabilità. Sono due facce della stessa medaglia. Purtroppo, Violante lo sa molto bene, e io non posso che condividere la sua aspirazione, la sua linea di tendenza, però sia a livello dell'organo di governo, sia più in generale, oggi i problemi della giustizia sono attraversati da due questioni, che sono da un lato quella dell'appartenenza, diciamo, del magistrato alla logica correntizia, che poi è una logica che andrebbe molto particolarmente studiata in relazione alla collocazione delle correnti anche in relazione alle forze politiche, e dall'altra però anche dal collateralismo che è rappresentato a livello del Consiglio Superiore dalla presenza dei laici. Non possiamo guardare solo un aspetto, dobbiamo guardarli tutte e due. E a me pare che tutti questi due aspetti vadano presi in considerazione e dovrebbero trovare un certo tipo di risposta. Non so come dirmi, anche la proposta di Violante di cambiare, diciamo così, il Consiglio Superiore, mi pare che abbia un aspetto positivo, ma incontra il limite nel quale permane la logica di appartenenza. Consideri questo dato, Violante faceva a suo tempo una proposta che spero ribadisca anche nel suo libro, legata alla sezione disciplinare, cioè quella di riuscire a portarla fuori dal Consiglio Superiore. Ecco, questa potrebbe essere un'altra ipotesi sulla quale ragionare. Cioè a me sembra che il tema sia particolarmente complesso, perché come capisce, da un lato c'è il problema della garanzia del potere politico rispetto a certe ingerenze della magistratura, non guardiamo, oggi si sta decidendo sostanzialmente di una sospensione della giurisdizione a livello della Corte Costituzionale, lo sappiamo tutti qual è la giornata di oggi nella quale noi stiamo parlando di giustizia penale, e quindi c'è questo aspetto dei rapporti fra giurisdizione e politica, e poi c'è il problema della presenza della politica all'interno della giurisdizione, sono due aspetti, come dire, che non sono secondari. In più c'è il problema del processo e quindi della collocazione del pubblico ministero e del giudice all'interno della vicenda processuale di cui ha parlato Dominioli. Mi pare che, come dire, le tematiche siano sufficientemente intrecciate e anche notevolmente complesse considerata la società italiana. Mi permetta di dire una cosa, vede, nella società statunitense, nella società anglosassone, certe cose vengono facilmente metabolizzate perché tutti si riconoscono in alcuni valori fondanti. In questa società molto strutturata come la nostra, molto conflittuale come la nostra, questo discorso diventa molto più difficile. Se ci fosse un riavvicinamento e una condivisione di valori da parte delle forze politiche da una parte e dall'altra, il discorso diventerebbe più facile. Purtroppo nella nostra realtà sociale, storica, perché abbiamo delle ragioni storiche, questo discorso è molto più difficile. La devo interrompere per la pubblicità, ripartiamo esattamente dalla delegittimazione o convergenza possibile. Nove in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di magistrati, come recita il titolo del nuovo volume edito per Einaudi da Luciano Violante. Ne stiamo parlando oltre che con l'autore, con il professor Giorgio Spanger e con Oreste Dominioni. Veniamo al punto, appunto, di come si disciplina il rapporto tra il trono e i leoni. Violante, è chiaro che se lo dovessi dire adesso qual è l'assoluta prevalenza dei messaggi SMS che arrivano dai nostri ascoltatori, dovrei dire che sono un po' costernato, perché a parte la consueta dose di schiaffi che mi prendo io personalmente, ovviamente, perché sarei troppo buono nei suoi confronti, piegato a 90 gradi, però diciamo la maggioranza degli SMS che arrivano stamattina toccano il punto del rapporto tra troni e leoni, e cioè dicono: quando i magistrati capiranno che bisogna rispettare la sovranità popolare e la scelta di un premier, allora quel giorno sarà possibile dialogare, altrimenti scontro. Le dovessi dire 7 messaggi su 10 sono tutti improntati a una reazione che mi sembra molto muscolare di una parte dell'opinione pubblica che pensa che l'ipotizzato no della Corte Costituzionale al lodo Alfano, che pensa che la sentenza del giudice del Tribunale di Milano in ordine alla corresponsione di 750 milioni di euro da parte della Fininvest a CIR siano l'ennesima conferma di questa mancata capacità di comprensione oramai di una parte militante della magistratura, che la politica si fa sbattendo a casa chi ha vinto le elezioni. Su questo punto le riforme ordinamentali possibili, ipotizzabili per quanto difficili, di cui abbiamo parlato nella prima mezz'ora, sono una strada. Ma nella sostanza, visto che lei stesso scrive che oramai la vita associativa della magistratura domina all'interno del CSM, ed è questo il meccanismo più ancora di come la si pensa politicamente per cui si danno i vertici degli uffici in Italia, a quella magistratura associata che vive di questo tipo di tendenze, come si fa a porre un problema come quello che da tanta parte degli italiani viene così duramente espresso di fronte a queste decisioni in arrivo oggi o decisioni già assunte come quelle dal Tribunale di Milano ieri? Come si fa? Cioè concretamente, e con la riforma del processo, la riforma del CSM che ci mette anni, o perché, come dice lei, ci vuole anche uno spirito diverso? Come si costruisce questo spirito diverso in magistrati che spesso, lei lo scrive, a volte vanno anche oltre nelle espressioni, mettendosi a gara con i politici che, naturalmente anche loro, a volte vanno oltre nelle espressioni di rispetto da usare verso la magistratura? Da dove si ricomincia? Guardi, vorrei partire dal punto iniziale. Io in questo libro cito moltissimi casi di capi di governo messi sotto processo dalla magistratura in tutto il mondo. Olmert, per esempio, come sa, è stato messo sotto processo, ha dovuto dimettersi per questo, e ha detto: io sono orgoglioso di vivere in un paese in cui i magistrati possono inquisire per il capo del governo. Questo è un modo di comportarsi correttamente. Ora, la democrazia è stata inventata per evitare gli abusi del potere politico, altrimenti non ce ne sarebbe bisogno, e le regole sono state inventate in democrazia proprio per questo. Ora, dire la sovranità popolare va rispettata, naturalmente, ci mancherebbe altro, ma non è che uno, perché è eletto, si chiami Giannino, Violante o Pinco Pallino, solo perché è eletto è esente da regole, e deve rispettare le regole come rispettano gli altri, e altrimenti non siamo più in democrazia. Anche perché, mi scusi se faccio una cosa, c'è un bellissimo libro di Cohen sul processo a Gesù, in cui l'interrogativo che si pone è questo: Pilato interrogò la folla: chi volete che sia libero? La folla non scelse Gesù, scelse l'altro, fu un voto popolare, e Gesù fu condannato, ma era come dire, quella folla era informata. Sapeva come stavano le cose, sapeva che cosa stava decidendo in quel momento. Professor Violante, allora, mi becca su un appunto su cui mi ho molto preparato, perché potrei citare molti volumi in cui si fa notare che in effetti Pilato, che non voleva la condanna, certo, ma Pilato si rivolge al popolo ebraico presente, ma forte del fatto che il Sinedrio di Caifa chiedeva incessantemente la condanna. In quel caso direi che la magistratura orienta la risposta popolare, ecco, se volessimo usare questo esempio. Ha ragione, mi fio il libro di Cori, comunque non voglio perdere tempo. Dicevo, insomma, la sovranità popolare, il popolo esercita la sua sovranità, come dice, nei limiti e nelle forme previste dalla Costituzione. Nessuno investito dalla sovranità popolare può ritenersi al di sopra le leggi. Fermo questo, è chiaro che la legge, il processo, eccetera, non devono essere uno strumento, come dire, per risolvere problemi politici, mancherebbe. Ma però lo sembrano incessantemente, questo è il punto. Guardi, io qui non intendo entrare né nella sentenza, che non ho letto né sul lodo, ci decideranno una cosa costituzionale, poi leggeremo le motivazioni, certo, e ci faremo un'opinione. Ma il punto è questo: nessuno può ritenersi esente dal rispetto delle regole, neanche la magistratura, naturalmente, ci mancherebbe altro. Qui però quello che a me sembra uno dei problemi, mi scusi se vado un pochino più generali, della crisi del nostro paese, è la crisi del principio di legalità, nel senso che oggi non è possibile capire quali sono le conseguenze giuridiche dei nostri comportamenti, perché le leggi sono confusissime, le interpretazioni sono tali e tante e molto contraddittorie tra loro, che nessuno può sapere bene che cosa gli succederà, e questa è una delle ragioni, visto che siamo su questa radio, di mancata competitività del paese, perché una grande impresa va più facilmente in un posto in cui le regole sono certe. Allora, per esempio, io dico lì una cosa che è un meccanismo anglosassone, cioè che l'interpretazione, sinché non ci siano ragioni per cambiarla, sia vincolante della Cassazione. Perché oggi come oggi l'avvocato, il cittadino, ha diritto di sapere qual è l'interpretazione. Fermo restando che il giudice che non è d'accordo con quella interpretazione può chiedere alle sezioni unite della Cassazione di cambiarla. Ma se lei sfoglia una lista di giurisprudenza, qui due eccellenti giuristi che stanno investendo il loro tempo stamattina in questa cosa, ma sfogliando le liste giuridiche c'è la decisione della Cassazione e poi c'è pro e contro, molto spesso contro c'è la stessa sezione tre giorni prima, ma è possibile una cosa di questo genere? Spanger, quando richiamo la responsabilità intendo riferirmi anche a questo. C'è bisogno di garantire una certa unitarietà dell'interpretazione. Ecco, però la interrompo su questo punto per chiedere l'opinione di Spanger. Uno dei meccanismi per cui fu abbattuto a un certo punto nella appropriazione da parte della magistratura del proprio potere di autogoverno, di autodecisione sulle proprie funzioni più elevate, cioè per esempio come progredire in carriera, furono abbattuti il meccanismo dei concorsi, perché si diceva il meccanismo dei concorsi, ai tempi era anche vero, inevitabilmente funzionava in modo tale che i magistrati di Cassazione premiavano solo la totale unilaterale adesione alle interpretazioni già sancite dalla giurisprudenza della Cassazione, perché quello era il meccanismo in base ai quali si distingueva il merito degli aspiranti a salire. Fu abbattuta questa roba perché si riusciva così, è il cieco dominio della magistratura apicale, quella più vicina alla politica. Adesso Violante ci dice sì, però qua di fronte al fatto che ciascuno interpreta come vuole in maniera contrapposta, di fronte a milioni di norme esistenti in cui il cittadino, l'attore economico non sa bene cosa diavolo è, bisognerebbe tornare a un'interpretazione non più così libera, cioè è libera nel senso che se ne può chiedere un'altra, ma bisogna non semplicemente vivere nella totale libertà dell'interpretazione contrapposta. Perché non incardinare di nuovo anche a questo un meccanismo di selezione in carriera? Perché tornerebbe a manifestarsi il vecchio fantasma della Cassazione, vittima del potere politico? Lei che dice? Sì, io non credo che questo sia il sistema per le promozioni. Cioè, il nostro sistema si è oggettivamente avvitato. Perché vede, da un lato quello a cui lei faceva riferimento scontava questo tipo di limite, cioè di condizionare la progressione all'interpretazione, ma appartiene a una stagione molto lontana. Oggi esiste una funzione che si chiama addirittura creatrice, i magistrati pretendono di avere anche un potere paranormativo, perché da un lato c'è il ritardo della politica, perché ci sono i nuovi diritti, pensi al caso Englaro, cioè ci sono delle situazioni nelle quali il ritardo della politica, la difficoltà di interpretazione delle norme, oppure la possibilità di interpretare le norme in modo più ampio porta il magistrato a farsi carico o a ritenersi legittimato di certe interpretazioni. E quindi questo è un aspetto che potrebbe essere negativo, ma c'è l'altro. Mi scusi, mi permetto di far sottolineare ai nostri ascoltatori soltanto questo. La crisi del sistema è evidenziata dal fatto che il primo presidente della Corte di Cassazione, il primo presidente, è stato nominato dal Consiglio di Stato. Cioè la contrapposizione politica di correnti, di logiche interne al CSM ha portato alla nomina da parte del Consiglio di Stato del primo presidente della Corte di Cassazione, senza tener conto dell'annullamento di tutta una serie di nomine di posizioni apicali. Cosa voglio dire? Che se quel sistema era sbagliato, questo che abbiamo adesso, che si cerca di autoriformare da parte dei magistrati, mostra parimenti i suoi limiti. Vorrei solo tornare sul discorso dei leoni. Mi permetta di dire una cosa, oggi si discute di uno del problema del rapporto fra i leoni e il trono, voglio dire, io non voglio, ecco, ho cercato di glissare sul problema dell'attualità, però lì un tentativo di mettere un certo tipo di argine o quantomeno di delimitare l'ambito fra il potere del trono e il potere del leone, tutto sommato mi pare che sia stato tentato. E mi pare che però la reazione sia non proprio di accettazione, se posso dire. Scusi, mi permette di dire questo, io lo vedo come una sospensione temporanea della giurisdizione, non come una garanzia di immunità. Sotto questo profilo, se una sospensione della giurisdizione vale come tutte le sospensioni della giurisdizione che il codice di procedura penale comprende. Cioè, abbiamo sospensione per l'infermità mentale, abbiamo sospensione del processo per l'immigrato espulso, abbiamo sospensione del processo per tantissime situazioni, per irriperibilità. Certo, mi dirà, queste sono processuali, qui si tratta di configurazioni soggettive, ma stanno nell'ambito di una sospensione della giurisdizione, non in una immunità senza termine. Ripeto, avevo voluto evitare questo profilo per cercare di non entrare nelle polemiche politiche e tenermi un po' sul discorso che giustamente il presidente Violante ha cercato di sviluppare. Però se dobbiamo scendere o sviluppare questo tipo di discorso, certamente non mi sono. E siamo esattamente nella questione di come disciplinare il rapporto tra troni e leoni. Sentiamo rapidamente anche la voce di alcuni di voi ascoltatori. Tarcisio da Pesaro, prego Tarcisio. Io risalgo al 1994, quando il Presidente del Consiglio fu accusato di essere un criminale. Poi fu assolto perché gli indizi erano ininfluenti. Allora, se, come disse Galileo, se non cambiano le condizioni al contorno, un fenomeno si ripete sempre allo stesso modo. Allora cade il governo, come ci ha spiegato Bossi, e continuerà in questo modo anche per l'avvenire. Se o il lodo Alfano o la ristrutturazione del CSM o la separazione delle carriere non avrà luogo. Va bene, grazie Tarcisio. Lei ci riporta esattamente all'origine della questione Seconda Repubblica, reazione, diciamo così, attraverso l'esercizio della funzione giurisdizionale alle forme nuove politiche della Seconda Repubblica, a quel personaggio anomalo e carismatico che si chiama Silvio Berlusconi. Ernesto da Cosenza, pronto Ernesto, ci dica. Ernesto, c'è ancora in linea? Sì. Ci dica, prego. Io volevo esprimere il mio pensiero facendo un esempio per non farvi perdere tempo. Cioè, c'è una partita di calcio tra Milan e Juventus. L'arbitro è un tesserato, è un tifoso del Milan. Da questa situazione ci si può aspettare che possa arbitrare una partita? Che il risultato possa essere giusto? Questo volevo dire. Ma l'arbitro tesserato tifoso del Milan chi sarebbe? La giustizia. E com'è il tesserato tifoso del Milan, scusi? Sì, perché c'è giudici che sono messi in un sindacato, come la magistratura democratica che è... No, ma io l'ho capito, la invito solo a riflettere che la scelta, dice, l'arbitro non fa l'arbitro ma è tifoso di una parte, è chiaro, ma se lei dice tifoso del Milan, chiunque a casa capisce che l'arbitro magistratura è amico di Berlusconi, mentre invece forse è un pochino più facile immaginare il contrario. Era semplicemente questa chiarezza che le chiedevo, grazie. Sì. Grazie Ernesto. Sentiamo ancora, no, è caduta la linea. Allora, facciamo rapidamente il minuto dedicato alle informazioni sulla circolazione stradale e poi torniamo con il presidente Dominioni. Nove in punto, la versione di Oscar. Presidente Dominioni, dice Violante, addirittura citando un suo articolo del 93 nel suo libro, nessuna società ha tollerato troppo a lungo un governo dei giudici che ingessa la ricchezza dei rapporti sociali dentro parametri coercitivi alla lunga intollerabili per qualunque cittadino, perché prima o dopo arriva una politica regolatrice che definisce i rapporti tra i poteri dello Stato e le relazioni tra magistratura e cittadini. Sta di fatto però che in questi 15 anni il momento regolatore, diciamo così, in cui la politica dice beh adesso basta, avete ecceduto, è tante volte tentato, ma mai si è cristallizzato in qualche cosa di significativo da questo punto di vista. Cioè oramai i leoni, l'impressione è che la facciano molto più da padrone col tempo. E il povero trono, ogni volta che tenta di dire ti metto una catenella, la catenella non solo gli si spezza tra le mani, ma rende più forte il leone che si avvicina con fauci sempre più acuminate a voler mordere, temo qualcosa di più del polpaccio, ecco, se capisco bene, e senza entrare nel merito delle vicende quotidiane di questi giorni. Da questo punto di vista, per voi che siete parte nel processo, che fate? Ne pagate il prezzo e voi insieme ai vostri rappresentati? Perché è chiaro che in questo scontro tra leone e trono pare quasi che l'avvocato e il suo assistito tende quasi a perdere importanza rispetto all'essenza di questo scontro, che è tutto politico, rispetto alle prerogative della politica da una parte e dei magistrati su se stesso dall'altra. Paga il prezzo nel processo, certamente è l'imputato, in quanto una giustizia che è squilibrata nel senso di un prevalere rispetto alla legge degli orientamenti della magistratura determina squilibri di quel tipo. Noi come Unione Camere Penali, guarda caso, abbiamo appena concluso il nostro congresso straordinario a Torino domenica scorsa, che portava il titolo Chi ha paura della riforma. Chi ha paura della riforma evidentemente è chi non la fa, e in passato è stata una maggioranza, un governo di un certo colore, oggi è il governo e la maggioranza in carica. Questa domanda che noi abbiamo posto a titolo del congresso peraltro e purtroppo ne contiene un'altra, che è la vera domanda, perché se c'è chi ha paura di fare la riforma vuol dire che c'è chi fa paura a chi faccia la riforma. E anche cioè, qui, se posso capire, la tesi sua è che gli stessi del centrodestra che dicono la magistratura mettiamo a posto di qua di là, sono loro che hanno paura e per questo la riforma non la fanno. Sono loro che hanno paura, i fatti lo dimostrano, ed è perché la magistratura fa paura ancora, in quanto sopravvive un pesantissimo potere di interdizione nei confronti della politica che faccia delle riforme dalla magistratura non volute. E qui il discorso è che si dovrebbe precisare cosa si intende dire quando si parla di magistratura. Luciano Violante opportunamente ha intitolato il suo libro Magistrati e non Magistratura, perché la magistratura è qualcosa che aleggia ma che non è la destinataria delle garanzie di indipendenza e di autonomia della Costituzione. La Costituzione garantisce l'autonomia e l'indipendenza ai singoli magistrati, e noi oggi siamo in una situazione nella quale la cosiddetta magistratura associata, che non è essa la titolare destinataria delle garanzie costituzionali, attraverso l'Associazione Nazionale Magistrati e attraverso il Consiglio Superiore colpisce e contiene l'indipendenza dei singoli magistrati. Noi oggi siamo in una situazione a indipendenza dei singoli magistrati regolamentata e contenuta dalla magistratura associata e dal Consiglio Superiore della Magistratura. Secondo la regola, chi non obbedisce alle correnti non fa carriera e quant'altro. Infatti molte sedi rimangono scoperte inequivocabilmente solo perché manca l'accordo tra le correnti, oramai non è più una questione diversa che quella. Solo perché, scusi? Manca l'accordo tra le correnti, questo è il punto. Tra le correnti per lungo tempo certi posti, quelli apicali e i semi direttivi, sono stati lasciati scoperti proprio perché si dovevano consumare le beghe fra le correnti. Oggi noi abbiamo 1000 scoperti in tutto il panorama, 1000 scoperti di organico nel panorama della magistratura. Pensi un po' che abbiamo fuori dalla magistratura, andati fuori dalla magistratura ma restando magistrati, a svolgere funzioni politiche o parapolitiche fuori ruolo, un numero di magistrati che va stimato, se si considerano complessivamente, attorno ai 270. Che insomma sono numeri su cui riflettere. Violante, le volevo chiedere una riflessione su un altro dei punti che viene analizzato nel suo volume, nella sua evoluzione nel tempo, cioè su come il magistrato poi, senza generalizzare, ma in alcuni casi, in alcuni procedimenti, in alcuni casi eclatanti, soprattutto quelli poi dello scontro tra leoni e trono, cioè con la politica, è diventato anche in taluni casi pronto a eccedere, e uso questa frase sua stessa per chiederne poi una riflessione. In un ordinamento giudiziario scrive che ha perduto la valutazione del merito come criterio per stabilire priorità di carriera, e in una società fondata sulla comunicazione è inevitabile che le gerarchie materiali tra magistrati si fondino ora più sulla notorietà che sul merito. Lei fa molti esempi nel passato, eccetera, ma su questo punto, che è una delle cose che più fa incavolare i politici, gli dice: ma guarda questi che si costruiscono sulla mia reputazione, il loro consenso sui giornali per diventare inamovibili, intoccabili, andare in televisione e magari farsi eleggere, come capita. Cosa si può cambiare perché non avvenga? Ma dico di norma, al di là dell'appello allo spirito nuovo e diverso. Ma vede, qui c'è un intreccio, come ho detto in altre occasioni, c'è un intreccio, c'è stato, non so se c'è ancora, forse c'è ancora in parte, tra carriere giudiziarie e carriere giornalistiche. Nel senso che, mancando un serio criterio, come dico nel libro, di selezione del merito dei magistrati, anche perché è difficile da fare, non è impossibile, ma è difficile, a questo punto la popolarità del magistrato lo rende in qualche modo, non dico intoccabile, ma quasi. Il magistrato più importante non è quello più bravo, ma o più capace, ma quello più noto. Questo poi è il punto della questione. Ora, devo dirle, mentre nel passato c'erano inchieste giornalistiche sulle quali poi a volte si costruivano processi, oggi ci sono inchieste giudiziarie sulle quali poi a volte si costruiscono articoli o sequenze di articoli giornalistici. E questo nesso che va rotto, il nesso tra... E quindi il problema del riserbo del magistrato, io credo che sia la cosa più importante. Io non in questo libro, in altre occasioni, ma forse dico anche qui, cito questo caso: come mai non si è mai individuato nessuno violatore del segreto delle indagini? Mai. una magistratura che arresta Riina, che arresta Provenzano, che riesce a fare operazioni di enorme importanza sulla grande criminalità di cui siamo grati, a loro e alla polizia, non è mai riuscito a individuare un caso di violazione del segreto. E questo è un punto su quale bisogna riflettere, lo dico senza spirito antagonistico. Però quando poi la politica tenta di dire allora le intercettazioni, le cose eccetera, le mettiamo in un bel cassetto e così via, reazione, si vuole impedire alla gente di conoscere. No, stiamo attenti, il problema è diverso, mi scusi Giannino, è diverso perché qui sto parlando della violazione, non è che se le mette, anche intercettazioni messe nel cassetto, c'è un'intercettazione che è stata uscita un'estate due anni fa, che non era arrivata neanche sul tavolo dei giudici. Va bene, era segretata, era solo in altre mani ed è stata pubblicata lo stesso da alcuni grandi quotidiani. Qui la responsabilità non è soltanto, in questo caso non era del magistrato, è stata responsabilità di non accertare chi ha violato quel segreto. Allora, quando si viola così patentemente il segreto, il problema dell'intervento va posto, come si interviene in questi casi, cosa succede? È vero che attualmente sono previste sanzioni molto severe nel caso di violazione del segreto, però siamo sempre lì, che queste sanzioni sono affidate, diciamo, allo stesso ufficio giudiziario che, dal quale è uscita la notizia. Io perciò ho proposto che nei casi di violazione del segreto delle indagini i giudici non siano gli stessi che stanno nell'ufficio dal quale è uscito il segreto, ma è stato violato il segreto, ma siano i giudici di un tribunale vicino o di un altro tribunale, perché evidentemente un giudice non indagherà quasi mai su se stesso, sul suo collega, sul cancelliere, sull'ufficiale di polizia giudiziaria che lavorano con lui. Quindi sono alcune piccole cose che vanno fatte per stabilire un meccanismo di riservo e di sobrietà nella magistratura. Io mi chiedo, al di là delle piccole cose, mi rendo conto dei principi della Costituzione, dell'eguaglianza dei diritti di elettorato attivo e passivo da riconoscere a tutti, ma mi chiedo se non sia venuto il momento di riflettere anche su una norma un po' più rilevante, del tipo, non solo per candidarsi alle elezioni bisogna preventivamente, in maniera definitiva, dimettersi dalla magistratura, non prometterlo e poi magari non lo si fa, ma che addirittura debbono passare tot anni dalle dimissioni prima dell'esercizio dell'elettorato passivo. E non lo so se questo, bisogna arrivare a questo, se la politica ne sarà mai capace. Purtroppo, ahimè, abbiamo anche esaurito il nostro tempo. Immagino che la risposta rivelata sarebbe no a questa cosa, vero? Questo tipo di soluzione che lei dà, no, perché credo che sia profondamente in violazione della norma costituzionale. Ci sono però misure, cominciano i partiti a non candidare i magistrati, per esempio. Ma i partiti se candidano i magistrati, soprattutto i partiti che cavalcano, diciamo, è ovvio che si prendono i voti con questo, quindi non ne usciamo. Io sono per questioni che chi ha un diritto così forte sulla libertà, sul patrimonio, e come oggi, insomma, il magistrato, bisogna riflettere seriamente sul fatto che possa come salire da un tram all'altro usando questo tipo di prerogative, che fino a prova contraria esercitano il pieno rispetto dell'ordinamento, però tanti casi fanno venire a volte dei dubbi. Allora io ringrazio Luciano Violante, ringrazio il professor Spangher, ringrazio il presidente Dominioni di essere stati con noi su questi temi così delicati, e ringrazio Piero Paolo Corleoni in regia e Gloria Guerrera in redazione. A questo punto posso dirvi solo l'appuntamento a domani. Radio 24. La passione si sente. Ah.